io che credevo di essere amato, invece non avevo niente. Io che ti ho raccontato di ogni trauma del mio passato. Io che ti ho supportato per ogni storia che hai inventato. E tu che hai tradito, che non hai amato, non hai capito. Tu che hai tradito, che non hai amato, non hai capito. Tu non hai amato, questo non è amore. Questo non è amore. Io che credevo avessi capito che ero un sopravvissuto. Io che per un istante mi son fidato del tuo aiuto. Perché mi dicevi sempre che non volevi farmi del male. E tu hai spergiurato, mi hai guardato ed hai negato. E tu hai spergiurato, mi hai guardato ed hai negato. Tu non hai amato, questo non è amore.